con il suo manto libera luce che ci catturerà. E senti il cuore battere sulle note della musica, un'emozione unica e la notte magica che va. Siamo tutti schiavi, figli delle tenebre, condannati al mondo delle favole. Tutti schiavi, uniti dalle tenebre, condannati a vivere le favole. Siamo tutti schiavi, figli delle tenebre, condannati al mondo delle favole. Tutti schiavi, uniti dalle tenebre, condannati a vivere le favole. Siamo tutti schiavi.